Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, anni fa un magistrato potentino tentò, senza il minimo successo, di processare il cardinale Michele Giordano. Oggi i magistrati di Perugia cercano di incastrare il cardinale Crescenzio Sepe sulla vicenda propaganda fide e l'affido a prezzi di favore, se non addirittura gratis, a politici e amici della cricca. Quella dei magistrati è una casta fortissima, ma in termini di intelligenza, preparazione e risorse, è molte posizioni sotto quella dei cardinali nella scala del potere. Sarebbe bene che qualcuno lo facesse sapere ai magistrati, perché sprecano tempo e denaro dello Stato. Infatti non occorre essere uno scienziato per capire che questo tipo di indagini è inevitabilmente destinato all'archiviazione. Un cardinale non è così scemo da mettersi in condizioni di essere processato da 4 magistrati di provincia. Intanto però i magistrati, tramite i mass media, gettano fango sulla Chiesa Cattolica e questo probabilmente è l'unico vero scopo delle loro manovre, anche se è improbabile che lo facciano consapevolmente. Alvise. Gentile Alvise, mi permetta di non essere d'accordo con lei, sia nel considerare i magistrati come semplici sprovveduti, sia nel giudicare i cardinali come persone al di sopra di ogni sospetto. Gli uni e gli altri sono persone umane, impegnati su fronti diversi, ma ugualmente importanti. Gli uni e gli altri possono sbagliare nella loro professione e nel loro ministero, possono, magari con le migliori intenzioni, compiere dei passi falsi, perseguire interessi particolari, servirsi in maniera non corretta del proprio potere. È quindi del tutto lecito e in qualche caso doveroso indagare anche sugli uomini di chiesa se vi sono sospetti o indizi di irregolarità nella gestione di immobili, in questioni patrimoniali, nei rapporti economici e sociali. Quanto al fango sulla chiesa, è sicuramente un rischio che si corre, ma questo può anche aiutare a ricordare le grandi e per lo più silenziose opere di bene che gli uomini di chiesa compiono in ogni parte del mondo. Il primo mondiale che ho visto in vita mia era quello del 1974. Avevo 7 anni e provai solo un'immensa infantile tristezza per quell'eliminazione di cui non capivo gli aspetti tecnici, quando solo un anno prima avevo gioito insieme a tutti gli italiani vedendo l'Italia battere il Brasile e l'Inghilterra in partite amichevoli che, nel calcio di allora, avevano tutto un altro spessore. Da allora siamo passati attraverso molte squadre azzurre, una grande, un paio ottime, alcune buone, non poche scarse, ma nessuna. Nessuna così avvilente come questa. Non quella del Mondiale 1986, che comunque ebbe qualche modesto guizzo prima di giacere ai piedi di Platini. Non quella del Mondiale 2002, che cedette comunque in extremis per le papere difensive e anche per qualche svista arbitrale. Non valgono considerazioni tecniche di nessun genere di fronte all'inqualificabile pasticcio che Lippi ha messo in tavola e ha poi continuamente rimestato fino a farlo diventare sempre più indigesto. Giovedì sera ho capito come ci si doveva sentire in quel giugno 1974, quando siamo stati umiliati in un aspetto della nostra tradizione che è marginale rispetto ai veri problemi della vita, ma che contribuisce solitamente, con poche altre cose, a farci sorridere, di fronte a stranieri spesso presuntuosi, sempre pronti a svalutarci. Ho sentito che Lippi si è preso la responsabilità del disastro. Magra consolazione, quando si pensa che si sono perduti 2 anni a rincorrere un assurdo revival. E ora se ne dovranno aspettare altri 2 per ritrovare forse il piacere di tifare azzurro. Ora scegliamoci qualche sana simpatia e godiamoci il vero mondiale, quello delle squadre che giocano con passione, serietà e umiltà, consce dei propri pregi e dei propri limiti. Forza Uruguay, forza Messico, Sud Corea, Stati Uniti, Ghana, Slovacchia, Cile, Svizzera. Fateci gustare il sapore autentico del mondiale. Michele. C'è solo una cosa che mi fa profondamente incavolare dell'eliminazione dal mondiale. Nello sport, come negli affari o nella vita in generale, si possono ottenere risultati, come pure può capitare di non raggiungere il traguardo che ci si era prefissato. Purtroppo, nella vita reale, le persone diventano adulte e vengono considerate tali proprio perché le proprie responsabilità se le devono necessariamente assumere prima, durante e sicuramente dopo il compito che stanno eseguendo. Non è questione di rappresentatività o motivazioni o che so io. È questione di dignità personale e professionale. Giovedì scorso in campo c'erano comunque 11 persone pagate per giocare a calcio, che come professionisti, a detta di Lippi, erano terrorizzati dal compito che li aspettava. Lo trovo inaccettabile. È inaccettabile dagli ex campioni del mondo, ma altrettanto dalle nuove leve, se non si sentivano in grado di affrontare la sfida e avrebbero potuto, con coscienza, starsene a casa. Se fossi terrorizzato dal trovarmi di fronte al giudice, cambierei lavoro e alla mattina, invece di recarmi in tribunale, me ne andrei a piantare patate. Mi sembra di capire che le nostre rappresentative sportive nazionali, fatte dal meglio della nostra gioventù, gente sana, bella, famosa e ricca, riescano a rendere al massimo solo quando sono deresponsabilizzate. Quando invece questi baldi giovani sono chiamati a rendere conto degli investimenti e delle speranze di cui li abbiamo caricati, si smarriscono e fanno figuracce. Questo non è professionismo e qualcuno dovrebbe spiegare loro che le responsabilità si devono assumere prima. Ma siamo davvero una nazione di outsider? Davvero i nostri giovani sono solo degni del lettino dello psicanalista? Andrea. Ho sempre pensato che le parole che si scelgono rivelano molto di noi. Per questo non mi sono mai piaciuti quelli che chiamavano eroi di Berlino, i giocatori della nazionale di 4 anni fa, e ora non sopporto quelli che gridano vergogna e cose ben peggiori ai protagonisti di questo pessimo mondiale. Che la nazionale abbia fatto schifo è un dato oggettivo, questo è il bello dello sport, che è oggettivo. Se Lippi fosse stato il manager dell'Alitalia, avrebbe potuto inventare 1000 giustificazioni per il fallimento totale del suo progetto. Invece, visto che i risultati del suo lavoro si vedono in diretta sul campo, è costretto ad assumersi le proprie responsabilità e a scusarsi con la nazione tutta. Ah, se tutto fosse come lo sport! Ma questi ragazzi non erano eroi 4 anni fa e non sono buffoni oggi. Sono solo più scarsi e molto meno in forma. Alessandro. Ho sentito che il sindaco di Forte dei Marmi vuole chiedere lo stato di calamità naturale perché il tempo non è stato buono. Anzi, la scorsa settimana si era lamentato perché le previsioni del tempo talvolta fanno qualche errore e quindi, per colpa delle previsioni errate, la gente non va a Forte dei Marmi. Conosco la Versilia da quasi 60 anni. La vera calamità di Forte non è il tempo, ma gli amministratori che, soprattutto negli ultimi 15 anni, hanno favorito speculazioni di ogni genere a favore di pochi eletti. Hanno fatto di tutto per trasformare un piccolo borgo marinaro e gradevole in un outlet a cielo aperto, con gettate di cemento e piazze rifatte con gradoni di pietra che al sole diventano roventi. Hanno puntato sul cosiddetto turismo dei VIP, intendendo per VIP calciatori, burocrati russi, speculatori edilizi, amici degli amici e, contemporaneamente, sbattendo la porta in faccia alla classe medio-borghese che ha reso famosa e florida Forte dei Marmi e tutta la Versilia. Ristoratori, alberghi e bagni si sono riempiti la bocca di turismo d'élite, dimenticando che questo tipo di clientela va e viene a seconda dei momenti e delle mode e non lascia nient'altro che qualche spicciolo di poca cosa. Lo scorso anno il sindaco di Forte chiuse una strada al traffico perché un amico VIP si era lamentato di un po' troppo traffico e la vicenda finì sui giornali locali. Il centro, che prima era un piacere da vivere, è diventato una vetrinetta di pochi negozi di grandi firme e i vecchi sapori di mare e di paesetto marinaro se ne sono andati in fumo insieme ai quattrini di quelli che, grazie alla politica, si sono allontanati da Forte e da tutta la Versilia. Auguri adesso a tutti i versiliesi, che il tempo porti loro un po' di sole, così non avranno da lamentarsi e da chiedere quattrini pubblici. Massimo. Il male è di quelli cronici e contagiosi, che non si cura con farmaci da banco, ma con un'attenta e lunga profilassi. Se è vero che uno dei problemi della PMI è la mancanza di liquidità, è altrettanto vero che chiedere alle banche di riaprire i rubinetti del credito equivale a continuare a prendere aspirine per il mal di denti e non curare la carie. E mentre la carie continua a scavare, si continuano a spingere gli imprenditori ad indebitarsi, a ingerire tonnellate di aspirine incuranti degli effetti collaterali. Ma chi ha ridotto così i nostri imprenditori lo sappiamo bene. I decenni di taglieggiamenti da parte della grande impresa nei confronti della piccola. Tempi di pagamento che vanno dai 90 giorni ai 24 mesi, prima accettati ma poi divenuti insostenibili, salvo assumere dosi enormi di aspirina messe a disposizione dagli istituti di credito. Ma anche le aspirine, che prima si pensavano illimitate, oggi sono terminate e il mal di denti sta diventando insopportabile. Mancano le commesse e servono soldi, tanti soldi per far fronte ai costi fissi. Così si chiede alle banche di trasformarsi in istituti di beneficenza, senza rendersi conto che dopo questa crisi il mondo non sarà più lo stesso, soprattutto non lo sarà il mondo della finanza. Basilea 2 salva gli interessi delle banche e queste, prima di darti la cura, ti guardano in bocca. Ai piccoli e medi imprenditori servono i loro soldi, non i soldi a fondo perduto, i crediti di imposta, gli ammortizzatori sociali, i bond e ogni altro sforzo messo in campo nei secoli dai governi. Gli imprenditori vogliono incassare, vogliono pareggiare il loro conto economico-finanziario. I soldi dei piccoli imprenditori, che oggi alla stregua di microbanche finanziano le politiche di investimento della grande impresa di cui sono contoterzisti o fornitori, servono loro per investire in nuove tecnologie o in ricerca, per assumere e pagare i migliori professionisti, per rafforzare le claudicanti reti commerciali, per riconsiderare i rating bancari, ora sì per diritto e non per sussidiarietà. La questione è tanto più grave quando la grande impresa è rappresentata dallo Stato sotto forma di enti pubblici o di aziende partecipate, che ricevono denaro pubblico dai cittadini e lavoro dalle piccole imprese in cambio di promesse di pagamento a n giorni. Il nuovo sistema di accesso al credito deve obbligare lo Stato a vigilare su questo malcostume e gli imprenditori a fare fronte comune per non sottostare al ricatto degli uffici acquisti dei big. Alessandro. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.